Letture di Radio 24. Gli sportelli bancari sono sempre di meno e nei prossimi 5 anni si prevede che chiuderanno almeno altri 10.000 sportelli. Le banche risparmiano, ma non i clienti. Per quello che riguarda gli istituti di credito, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, dal 2007 a oggi sono state chiuse 800 filiali in tutto il paese. Il numero di sportelli è sceso dai 32.800 alla fine del 2007 a quota 31.761 a fine 2013. E vista la sempre maggiore diffusione di tablet e smartphone, l'emorragia non sembra destinata a fermarsi. Del resto, per i prossimi anni, nei piani industriali dei 3 maggiori gruppi bancari italiani, è prevista la chiusura di altri 1.500 sportelli, con una riduzione dei servizi di cassa e una decisa virata verso le operazioni online. Il motivo è presto spiegato. Le banche spenderanno molto meno. Si stima un risparmio fra 3 e 3 miliardi e mezzo di euro, circa il 7-8% della spesa annuale, per offrire quasi lo stesso servizio. Ma a questo taglio dei costi corrisponde un risparmio per la clientela? Secondo la Bocconi, no. Stando a uno studio realizzato a gennaio 2014 dall'Università Milanese, quest'anno pagare le bollette allo sportello costerà 3 euro, con un aumento del 20% rispetto ai 2,50 euro del 2012. Il prelievo allo sportello e non al bancomat porterà invece un addebito di 2 euro contro i precedenti 1,50 euro. Prezzi più salati anche per il prelievo dal bancomat di un'altra banca e per i bonifici. Che dire, oltre al danno, anche la beffa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianluca Baldini, Sportelli tagliati, la banca risparmia, noi invece no. Dal venerdì di Repubblica, del 9 maggio. Letture di Radio 24. Nel 1847 Charles Dickens, autore di celebri romanzi come David Copperfield, Il Circolo Pickwick o Il Canto di Natale, aveva aperto una casa per accogliere le donne senza tetto, ex prostitute, disoccupate finite in miseria, ex detenute, per offrire loro la possibilità di reinserirsi nella società. In una lettera da poco ritrovata, lo scrittore inglese comunicava alla direttrice dell'istituto le sue disposizioni su come avrebbe dovuto essere accolta la prima delle ospiti. Nel 1847 Dickens aveva fondato assieme alla sua amica, la ricca filantropa baronessa Burdette Coutts, una casa per donne senza tetto. Con la consueta energia aveva individuato il luogo, il Cottage Urania, nel quartiere Shepherd's Bush di Londra e si era prodigato nell'organizzarne ogni dettaglio, dal cibo al giardino fino al pianoforte attorno al quale le donne si sarebbero ritrovate per qualche piacevole serata. Per pubblicizzare la casa era andato in giro per le strade a distribuire volantini, aveva interrogato lui stesso gli abitanti della zona e quando si era reso conto che la società inglese era piuttosto sconvolta dal fatto che nell'Urania Cottage ci sarebbe stato un pianoforte, aveva diffuso la voce che non ce ne sarebbe stato solo uno, ma molti, in pratica uno per ogni donna. Nel 1852, in una lettera che il prossimo 21 maggio verrà battuta all'asta da Christie's, Dickens scrisse queste parole alla direttrice della casa, Georgiana Morson, per preparare l'arrivo di Eliza. «Potete mandare della biancheria intima per Eliza e dei soldi perché possa farsi un bagno caldo, meglio due, spiegandole quando potrà farlo in modo che sia perfettamente sana e pulita. Ce l'ha una gonna per quando entrerà in casa? Magari voi ne avete una da offrirle? Il cappello e tutto il resto penso sia meglio che glieli facciate avere. È piuttosto piccola di statura». Dickens conosceva le condizioni dei poveri della metropoli meglio della maggior parte degli scrittori vittoriani. Non aveva mai dimenticato i giorni in cui da bambino lavorava in fabbrica mentre i suoi genitori e gli altri fratelli erano nella prigione per debitori e spesso passava lunghe notti camminando per le vie di Londra parlando con tutti quelli che incontrava. Alcune delle donne alle quali con il cottage Urania veniva offerto un tetto e la possibilità di staccarsi dalle loro vite precedenti erano ex detenute, altre erano disoccupate, cadute in miseria, altre ancora ex prostitute. Molti dei suoi contemporanei erano scioccati dal fatto che, invece del regime punitivo degli altri ostelli o del trattamento brutale degli ospizi di mendicità, che Dickens aveva così bene descritto nei suoi libri, all'Urania Cottage, spiegava lo scrittore, l'atmosfera avrebbe dovuto essere rigorosa, ma anche allegra e incoraggiante. Le giovani donne avrebbero dovuto ricevere del buon cibo, dei bei vestiti colorati, e il personale non avrebbe dovuto fare domande insidiose sul loro passato, anche se Dickens conosceva bene le loro storie, e alcuni studiosi pensano che una versione rielaborata della vita di queste donne abbia poi trovato spazio in molti dei suoi libri. Le donne avrebbero ricevuto lezioni di economia domestica, con l'obiettivo di prepararle per un impiego o per il matrimonio. Nel 1853 Dickens scriveva, in un articolo sul Household Words, che delle prime 56 ospiti dell'Urania Cottage, 30 si erano felicemente stabilite in Canada o in Australia, come il personaggio di Martha in David Copperfield, anche se tre di loro erano ritornate alla vecchia vita. Altre 14 se n'erano andate e 10 erano state espulse per cattiva condotta. Una aveva aperto con un coltello la porta della cantina dove c'erano le birre, e di un'altra Dickens scrisse che sarebbe stata in grado di corrompere un intero convento di monache in un paio di settimane. In quegli anni la vita di Dickens era sempre più infelice, e quando nel 1858 si separò dalla moglie Catherine, la madre dei suoi 10 figli, la baronessa Burdett Coutts si schierò con lei e l'amicizia con Dickens terminò. Il cottage Urania fu chiuso nel 1862. Georgiana Morson, la direttrice, che era vedova quando aveva iniziato a lavorare nella casa, rinunciò all'impiego per risposarsi, lasciando in lacrime le ragazze ospiti. Conservò però molte lettere di Dickens e quella appena ritrovata era rimasta di proprietà della famiglia per molte generazioni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maeve Kennedy, La lettera di Dickens sul rifugio per le donne, biancheria intima pulita, bagni e pianoforte, dal Guardian dell'11 maggio. Anche se ormai non fanno più notizia, in Venezuela continuano le dure repressioni delle forze dell'ordine contro i manifestanti antigovernativi. Il vero conflitto è tra quelli che difendono un governo che utilizza la violazione dei diritti umani come politica di Stato e quelli che sono disposti a sacrificarsi per impedirlo, commenta lo scrittore e giornalista Moisés Naím dopo aver raccontato tre casi che illustrano gli orrori quotidiani che avvengono nel suo paese. Prima cartolina. Moises Ganches ha 19 anni e lavora come locandiere in un ristorante nei sobborghi di Caracas. Il 5 marzo, uscendo dal lavoro, si è trovato intrappolato con altre 40 persone in un parcheggio. Agenti della Guardia Nazionale Bolivariana, che stavano reprimendo una manifestazione, hanno cominciato a lanciare candelotti lacrimogeni e a sparare pallottole di gomma contro il gruppo in cui si trovava Ganches. Quando ha cercato di andarsene, un agente glielo ha impedito. Nonostante non opponesse resistenza, due guardie si sono alternate per pestarlo, mentre una terza si è avvicinata e gli ha sparato a bruciapelo proiettili di gomma sul bacino. Ganches ha dovuto essere operato alle braccia, a una gamba e a un testicolo. Seconda cartolina. José Romero, di 17 anni, è stato arrestato il 18 marzo all'uscita di una stazione della metro a Caracas. Un agente della Guardia Nazionale gli ha chiesto i documenti e quando Romero glieli ha consegnati, la guardia gli ha dato un ceffone e lo ha arrestato senza fornire spiegazioni. È stato trasferito in un luogo sconosciuto dove ha subito pestaggi e minacce di morte. È stato obbligato a rimanere inginocchiato per 12 ore, senza acqua né cibo e senza poter andare al bagno. Durante la notte le guardie gli hanno detto che lo avrebbero violentato e una di loro gli ha tolto la camicia e lo ha bruciato. Terza cartolina. Il 13 febbraio Juan Manuel Garrasco, 21 anni, e due amici stavano correndo per allontanarsi dagli scontri tra la Guardia Nazionale e i manifestanti nella città di Valencia. Sono entrati in macchina, ma sono stati circondati da 15 guardie in motocicletta che li hanno obbligati a uscire, li hanno pestati, gli hanno sottratto i cellulari e altri averi e poi hanno incendiato l'auto. Una delle guardie ha messo un fucile sul collo di Carrasco, poi gli ha fatto scendere la canna sulla schiena. Gli ha tirato giù le mutande e gli ha penetrato il retto con l'arma, provocandogli un'emorragia. Sono solo tre casi di un lungo inventario di orrori stilato dall'organizzazione internazionale Human Rights Watch durante una visita nel paese sudamericano a marzo. La lettura del rapporto completo è tanto agghiacciante quanto indispensabile. Ogni episodio è documentato con prove che non lasciano dubbi sulla veridicità di quanto riferito. Il vero conflitto in Venezuela di questi tempi non è tra quelli che promuovono il socialismo e quelli che credono nel capitalismo, tra i ricchi e i poveri, o tra quelli che simpatizzano per gli Stati Uniti e quelli che ripudiano la superpotenza. È tra quelli che difendono un governo che utilizza la violazione dei diritti umani come politica di Stato e quelli che sono disposti a sacrificarsi per impedirlo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Moisés Naím, Cartoline dal Venezuela, da Repubblica del 12 maggio. Mentre in Iran decine di donne postano su Facebook le loro foto senza il velo per sfidare gli ayatollah, i media di tutto il mondo diffondono le tristi immagini delle giovanissime studentesse nigeriane rapite dagli integralisti islamici, tutte vestite di nero e di grigio e costrette sotto la minaccia delle armi ad annunciare di essere diventate musulmane. Perché l'Islam è una religione egualitaria, commenta Domenico Quirico sulla Stampa, ma non per le donne. I musulmani possono accettare le innovazioni tecnologiche che arrivano dall'odiato Occidente, ma le donne devono restare sempre quello che sono. Coperte di nero e di grigio, un domino di panno che nasconde le forme. Solo gli occhi ci guardano mentre sedute, piegate, calde e cave come un nido, scandiscono in una radura il primo capitolo del Corano. Irriconoscibili in quella radura scialba, le 100 giovinette prigioniere che erano appena ieri piene di colore e di vita, l'Africa, che è colore e vita, annullate in un tempo scomparso, come se il tessuto e il colore dell'hijab cancellasse il tempo e la vita e soffocasse ogni altra cosa sotto la sua cova. Nel video dei Boko Haram, le immagini delle studentesse sequestrate nel nord della Nigeria si alternano con il sermone del capo della setta islamista Abu Bakr Sekau, con il Kalashnikov negligentemente appoggiato sulla spalla, a gesti larghi, lo sguardo magnificamente torbido, annuncia che le ragazze per cui vi preoccupate tanto in Occidente, noi le abbiamo liberate. E sapete come? Sono diventate musulmane. Tre di loro parlano, ininterrottamente, con quella voce al di là che si ha quando si recita, quando si obbedisce a quello che si dice senza esserne più padroni. Confermano. Eravamo cristiane. Ora siamo convertite all'Islam. Le loro parole, con l'abito che indossano, scavano una sventura irreparabile. Il passato che è morto brutalmente risuscita per soffrire. La felicità della loro giovinezza è distrutta. I giorni trascorsi, che parevano felici, sono divenuti tristi ed è il lutto di tutto, del vestito e dell'anima. La conversione. Cosa c'è in tutto questo del dono di una tenerezza divina, di una consolazione che non è nell'uomo? Guardano fisse la telecamera, le convertite. Non c'è paura in quel riquadro di viso, sotto la visione della crudeltà della vita, una paziente rassegnazione, la consapevolezza del nulla. Intente, si direbbe, alla propria debolezza, si guardano sanguinare come un'urna piegata. Ecco l'impressione della sacra povertà degli esseri umani, travolti dalla sopraffazione e dal fanatismo. L'Islam è una religione egualitaria. Tutti ricchi e poveri, potenti e derelitti, sono uguali davanti al definitivo mistero di Dio. Tutti meno tre categorie: i miscredenti, gli schiavi e le donne. Ma lo schiavo poteva essere liberato da suo padrone, l'infedele comprendere il vagare nell'errore e diventare credente, cancellando subito la sua inferiorità. Solo la donna è condannata per sempre a restare ciò che è. Perché nel corpo delle donne passa il confine tra modernizzazione e occidentalizzazione. Conservatori tradizionalisti e radicali fanatici su una cosa concordano: possono accettare la tecnologia moderna, la utilizzano perché necessaria ed efficace, ma l'emancipazione delle donne è, per gli uni e gli altri, la peste della occidentalizzazione, che deve essere tenuta lontana o estirpata senza pietà. A Chibok, in Nigeria, si fonde nella violenza un altro tassello del grande jihad planetario, madido di odi di guerra. Lo stanno costruendo giorno dopo giorno da Kabul a Aleppo, dalle sabbie del Sahara al nord della Nigeria, uomini come Abu Bakr Sekau, uniti dall'invisibile e sublime legame del male, pensano che per trionfare bisogna uccidere, per salvare la vita, perdere quella degli altri. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Domenico Quirico, I volti di una sventura irreparabile, dalla stampa del 13 maggio.